piano. Di Enrico Ruggeri. Ci sono degli artisti, dei musicisti che è veramente difficile raccontare in un'ora di puntata. Qui stiamo parlando di un signore che è riuscito a dilagare, userei proprio questa parola, in ogni campo dell'arte, della musica, scrittura, recitazione, sceneggiatura. E le cose che ha fatto, soprattutto nella musica, hanno fatto di lui un monumento. Sto parlando di Nick Cave, che peraltro ci ha anche pensato a costruirsi un monumento. Nel 2008 se n'è uscito con questa strana idea di fare costruire nel suo paese natale una grande statua equestre in bronzo raffigurante lui nudo con uno straccetto a coprire, insomma, le parti che vanno coperte, che cavalca un cavallo rampante mentre tiene una torcia in mano. Una cosa discreta, ovviamente uno scherzo. C'era una specie di perversa fascinazione in questa faccenda. Una statua in un paese dove tutti quelli che passavano si chiedevano: chi cazzo è questo ragazzo? In realtà l'idea era quella di realizzare la statua, farsela rifiutare dalla città e quindi farla scomparire nel deserto, uno simile a quello di alcune scene del Pianeta delle Scimmie. E poi il deserto avrebbe inghiottito la statua. Ma lo scherzo è stato preso sul serio nel suo paesino. 2000 anime erano pronti a realizzare questa statua e ancora oggi non se n'è fatto niente, ma sarebbe divertente vedere se davvero la gente si fermerebbe davanti a chiedersi: ma chi diavolo è questo ragazzo? E già, chi è Nick Cave? All'apparenza uno così alto, magro, coi lunghi capelli neri che lui ammette di tingersi da quando aveva 16 anni per creare un contrasto maggiore con la pelle bianchissima, all'apparenza sembra voler confermare un'immagine di artista crepuscolare, interessato proprio più all'oscurità che alla luce. Trova piacevole, lo ha detto lui, trova piacevole scrivere di cose violente, anche mortifere, che per i testi delle sue prime canzoni ha trovato ispirazione nelle pagine più truculente dell'Antico Testamento, della Bibbia. Eppure Nick Cave descrive se stesso come un romantico senza speranza, un reazionario, un uomo con l'animo di un conservatore. Di certo la sua musica, se togliamo la fascinazione verso la morte, appunto le truculenze religiose, è il risultato delle mille strade del suo cammino. E in un articolo su di lui hanno scritto che se si guarda al percorso artistico di Nick Cave risulta evidente che c'è una vera e propria geografia delle sue influenze. Partiamo dall'Australia per quello che riguarda, diciamo, il paesaggio dell'infanzia, della famiglia, per arrivare alla Germania, per capire il suono, la furia che hanno caratterizzato i primi dischi dei Bad Seeds, il suo gruppo storico. E poi si va in America del Sud, in Gran Bretagna, per il tempo della riflessione. Insomma, un viaggio lungo e, ahimè, anche tormentato, è quello che voglio raccontarvi oggi. Nicholas Edward Cave nasce in Australia il 22 settembre del 1957 a Warracknabeel, un piccolo paesino che forse un giorno avrà l'onore di avere la sua statua a cavallo. I genitori lavorano nella stessa scuola, il padre è un insegnante di inglese e matematica, la madre è la bibliotecaria. Colin, il padre, è una figura importante nella vita di Nick perché gli insegna a amare la lingua, la letteratura, apprezzare i classici, spesso gli legge ad alta voce passi del Coriolano, di Delitto e Castigo, di Lolita. Gli succedeva qualcosa di particolare quando leggeva ad alta voce. Diventava un uomo diverso, sembrava trasfigurato. E a me sembrava di venire introdotto in questo mondo segreto, il mondo del sesso, dell'età adulta e dell'arte. Allo stesso tempo però ero solo un ragazzo e non sempre riuscivo a soddisfare le sue aspettative. Se mi scopriva a leggere un brutto thriller, me lo strappava dalle mani e mi diceva: vuoi un po' di corpi sanguinanti? Leggi Tito Andronico. Nonostante tutti gli sforzi del padre, a 13 anni Nick viene espulso dalla scuola media perché viene beccato insieme a un amico a tirar giù le mutandine di una sua compagna di scuola di 16 anni. Insomma, il buongiorno si vede dal mattino. Lui sostiene la sua innocenza, dice che l'intenzione era quella di capire le differenze tra uomo e donna. I genitori della bambina vogliono addirittura denunciare i due ragazzi per tentato stupro. Insomma, avete già capito, l'adolescente Nick è già uno incontenibile, selvaggio, è quello che alle feste di compleanno si ubriaca e che magari si alza in piedi nudo, che si agita a suon di musica. È insomma un apprendista perfetto per un futuro da rockstar o quantomeno da rocker. Nel frattempo i genitori però sono disperati, la famiglia si è trasferita da poco in un sobborgo di Melbourne, i coniugi Cave decidono di mettere Nick in collegio. Qui lui trova la sua prima band con Chris Vulture, avvoltoi di cemento, fa amicizia con i ragazzi che poi diventeranno il nucleo centrale dei Birthday Party, tra i quali c'è anche Mick Harvey che lo seguirà per la maggior parte della sua carriera musicale. Come sempre si comincia con le cover famose, Bowie, Roxy Music, Lou Reed, e qui già capite quanta assonanza c'è, ma la passione per la musica gli crea già qualche problema. Eravamo interessati all'arte, non particolarmente interessati allo sport. Quindi eravamo considerati degli omosessuali. Non c'erano altre possibilità. Eravamo i finocchi della scuola. Eh sì, quelli erano anni in cui quelli come Bowie, Roxy Music, Lou Reed, quelli un po' raffinati, quindi in odore un pochino di gaytudine, diciamo così, venivano molto discriminati. Io mi ricordo, insomma, quelli del movimento che mi dicevano: ma cosa vai in giro con il disco di quel frocio di David Bowie? Cose che non si raccontano più, ma che sono vere. E in tutti i casi questo succede anche a Nick Cave in Australia, dove non c'era il movimento. E non hanno fatto però i conti con qualcuno che sa essere più crudele di loro, perché un giorno Cave e i suoi amici finocchi, lo dico tra virgolette perché non lo erano, arrivarono a scuola con la borsetta. Quando gli altri compagni cominciarono a urlare contro i soliti insulti, loro risposero a borsettate in faccia, solo che dentro alle borsette c'erano dei mattoni, borsette killer. Insomma, sono anni caotici, al di fuori di ogni regola di legge. Le cose non cambiano e dopo il liceo Nick si iscrive a una scuola d'arte, spera di diventare pittore, viene buttato fuori anche da lì e rivolge definitivamente, e direi per fortuna, le sue energie verso la musica. È stato durante il Festival Hall, in cartellone c'erano tre gruppi arrivati dall'Inghilterra, i Manfred Mann, i Deep Purple e un'altra band che ora non ricordo. È stato incredibile. Ero solo un ragazzino e per la prima volta stavo ascoltando la musica amplificata. E la musica mi sconvolgeva la mente. Ed è stato molto, molto eccitante. Non mi ricordo molto del concerto, ma mi ricordo di essere stato seduto lì e di sentire il suono che mi attraversava fisicamente. Nick Cave ha 19 anni, da qualche anno suona in una band che ironicamente si chiama The Boys Next Door, vuol dire i ragazzi della porta accanto, ma Nick e i suoi amici sono tutto fuorché i bravi ragazzi della porta accanto, tanto che Nick finisce anche dietro le sbarre per una serie di piccoli reati, perché magari si introduce nelle case con gli amici, dormono nei letti delle persone, mangiano il cibo, rubano e a volte vengono colti in flagrante. Insomma, sono anni, come dire, molto turbolenti, e in uno di quei fermi di polizia le cose cambiano per sempre, perché questa volta è nei guai, è finito dentro per una faccenda di furto. Quando la madre va a riprenderselo, gli rivela che il padre Colin è appena stato ucciso in un incidente d'auto. Per Nick è un colpo durissimo che cambia la vita. Mio padre è morto in un momento della mia vita nel quale ero molto confuso. La sua perdita ha creato un vuoto, uno spazio in cui le mie parole hanno cominciato a galleggiare, a raccogliersi e a trovare un loro scopo. Lo scopo è la musica. Con i Boys Next Door Nick comincia a girare l'Australia per qualche piccolo concerto, e in genere durante questi concerti poi finiscono per distruggere tutto quello che c'è a portata di mano, e quindi è difficile che li richiamino nei posti nei quali hanno suonato. Insomma, si fanno terra bruciata attorno, si fanno un nome però come band punk new wave, direi. Incidono un disco, Door Door, nel 79, l'epoca però è quella, l'epoca dei concerti selvaggi, è un momento wild. Poco dopo l'eco dei nuovi movimenti musicali che stanno sconvolgendo la scena inglese arriva fino all'altra parte dell'emisfero. Nick e i suoi amici capiscono che è il momento di tentare la fortuna, si imbarcano su un aereo per la Gran Bretagna. We thought even the pale sky stars were smart enough to keep well away from LA. È il 1980, Nick Cave assieme ai suoi Boys Next Door sbarca a Londra e i primi effetti di questo trasloco è il cambio di nome. The Birthday Party è il nuovo nome della band. Hanno preso a prestito il titolo di un'opera teatrale di Harold Pinter. Lo stile musicale comincia a colorarsi di quelle venature gotiche che tanto i fan di Nick Cave amano ed ameranno. Lo stile interpretativo di Nick diventa sempre più cupo e durante i concerti urla, ulula direbbero i maligni, si dimena sul palco, si butta per terra. È una musica di grande impatto che a volte insomma sfiora l'avanguardia, la cacofonia. La vita va di pari passo con il suo personaggio da palcoscenico, vive in una casa occupata, ha iniziato a drogarsi da qualche anno e non stiamo parlando di droghe leggere, stiamo parlando di eroina. Lui l'eroina la usa pesantemente e sarà una sua compagna di vita. Una volta viene visto in una stazione del metro londinese mentre scrive una lettera usando il sangue di una siringa che si era appena tolto dal braccio. Dopodiché Cave e i suoi amici ne hanno abbastanza di Londra, o forse Londra ne ha abbastanza di loro. Quando arrivammo a Londra, tutto quello che era successo era già bello che finito. E la stampa inglese ci vedeva solo come delle strane persone che venivano dall'Australia e che facevano un tipo di musica strana. Nel 1982 i Birthday Party si spostano a Berlino Ovest e lì c'è un ambiente diverso, una città cupa ma creativa, perfetta per loro, ma trovano anche molto alcol e molta droga. Continuavo a farmi d'eroina, ma l'anfetamina di Berlino è la roba più straordinaria che ci sia. Se continuavi a prenderla, potevi anche non dormire più. E questo faceva sì che i giorni e le notti fossero straordinariamente lunghi. Giorni e notti che trascorrevo davanti alla macchina da scrivere. Ne uscì fuori un libro che nella versione originale era lungo più di 500 pagine. E in parte era per via di tutto lo speed che mi calavo. In Germania Cave trascorre 3 anni praticamente dentro a un letto, con le pareti ricoperte di immagini religiose e pornografiche. Scrive il suo primo romanzo, And the S Saw the Angel, pubblicato nel 1989. Ma non è l'unica cosa che fa. Oltre a 3 album con la sua band, frequenta la scena underground della città tedesca. In questo periodo incontra Blixa Bargeld, che è la leader di una band di rock industriale, gli Einstürzende Neubauten. Da subito Blixa comincia a collaborare con Nick, che nel frattempo sente sempre più forte il desiderio di andare oltre il sound dei Birthday Party. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando di Nick Cave, uno dei più grandi artisti degli ultimi 30 anni, un musicista, uno scrittore, uno sceneggiatore, molte cose ancora, grande performer. Siamo di fronte però a un personaggio complesso, affascinato dall'oscurità, dalla violenza, dalla morte. Non a caso la sua band più famosa si chiama Bad Seeds, i semi del male. Però Cave ha anche una sensibilità molto viva, è un romantico, è un poetico, anche se è partito dall'Australia col suo primo gruppo nel periodo post-punk. E i Birthday Party in qualche modo erano un gruppo post-punk, approdati prima a Londra, poi a Berlino Ovest, dove lui si è trovato perfettamente a suo agio nelle atmosfere cupe, underground della città del muro. E poi cominciano a stargli stretti i Birthday Party. La collaborazione con l'artista tedesco Blixa Bargeld gli ispira delle altre sonorità, il desiderio di creare un lavoro diverso, magari meno distruttivo e ossessivo, più maturo. Insomma, nascono i Bad Seeds. Dei Birthday Party rimane solo il chitarrista Mick Harvey, il resto della band si separa e non in maniera indolore, si parla di polemiche, di insulti. Il primo album con i Bad Seeds si chiama Nick Cave's From Here to Eternity, viene salutato dai critici come uno dei migliori album rock mai prodotti. Insomma, insieme ai Bad Seeds, Nick Cave sembra aver trovato un suo centro sul palcoscenico. È sempre lui, istrionico, è un mattatore, però invece di menarsi, insomma, ha canalizzato la sua energia, la sua follia. Adesso ha un suo stile, anche nel modo in cui si veste. Dalla fine degli anni Ottanta diventano famosi i suoi vestiti 3 pezzi, giacca, calzoni e panciotto con camicia sgargiante. Diventa una specie di marchio di fabbrica. Non sono vestiti di alta sartoria, non sono vestiti costosi. costosi. Sono fatti da un piccolo sarto con una macchina da cucire e siccome li porto sempre, li considero parte del mio lavoro. Il vestito che indosso deve essere funzionale. Devo poterlo indossare anche se andassi in spiaggia. Adesso si veste meglio, ma non è che ha cambiato completamente registro con i bed seats. I critici scrivono che continua a esplorare le sue ossessioni riguardo alla religione, alla morte, all'amore, alla violenza, con un bizzarro ibrido di blues, gospel, rock e pseudo artistico post-punk. Mi sembrano definizioni piuttosto azzeccate. In questa lista, avete sentito bene, si parla anche di religione. Infatti la religione gioca una parte molto importante nella poetica di Cave. Il mio rapporto con la religione è cambiato molto negli anni. È cominciato in modo molto contraddittorio e poi ho scoperto che stranamente ne ero molto influenzato. E poi ancora ho cercato di combattere questa idea. E ora, ancora una volta, mi sono ammorbidito sull'intera faccenda e sono diventato più tollerante nei confronti della religione. O almeno sono diventato tollerante rispetto all'idea che noi, come esseri umani, abbiamo il diritto, in qualche modo, di pensare al di fuori di noi stessi e di pensare a qualcosa che possa esistere al di là di noi stessi, forse anche a qualcosa di superiore a noi stessi. Ma questo non vuol dire che io mi senta coinvolto in qualsiasi religione. Eppure molte delle canzoni scritte da Cave per sua stessa ammissione traggono ispirazione proprio dalla religione. La brutalità dell'Antico Testamento, le sue storie e le grandi imprese mi hanno ispirato. Ci ho scritto sopra e esse hanno influenzato il modo in cui ho osservato il mondo. Quello che sto cercando di dire è che non è che andassi in giro pieno di rabbia pensando che Dio è un Dio odioso. Sono stato influenzato dalla lettura della Bibbia, che si adattava bene al mio modo di vedere le cose, in un periodo particolare della mia vita. Ma dopo un po' ho cominciato a sentirmi un po' più gentile e più caldo nei confronti del mondo e quindi col tempo ho iniziato a leggere il Nuovo Testamento. Forse una delle ragioni per cui Cave comincia a sentirsi più aperto nei confronti del creato, insomma degli altri, è perché si è innamorato. Lei è una designer di moda brasiliana, Vivian, la incontra a Berlino e con lei decide di lasciare le cupezze tedesche per un po' di vivacità latina. La segue a San Paolo del Brasile nel 90, i due si sposano e nel 91 nasce il loro figlio Luke, figlio non unico perché a qualche settimana di distanza in Australia nasce anche Jethro, figlio di Cave, di una sua relazione occasionale. Separati da un oceano oltre che dalla vita, padre e figlio si conosceranno solo quando il bambino ha 7-8 anni. La possibilità di condurre una vita normale, di avere una moglie, un figlio, una famiglia, dà a Cave l'occasione per iniziare un periodo di riabilitazione dall'eroina, non facile. Eh sì, perché dopo 15 anni di droga pesante e 15 anni che lui ha attraversato rimanendo miracolosamente indenne da overdose e anche dalle malattie che si prendono facendosi le pere, Cave decide di smettere anche di bere. E anche la sua musica poco a poco si trasforma dalle sonorità violente, passa a creare ballate sempre più lente, introspettive, anche se c'è sempre quel tocco di morbosità. E c'è un album, per esempio, Murder Ballads, che segna uno dei momenti di grande popolarità dei Bad Seeds, ma stiamo sempre parlando di un album che racconta canzone dopo canzone di una serie di assassini. Ma comunque all'interno del disco c'è un famoso duetto con Kylie Minogue e Where the Wild Roses Go. E lì Kylie Minogue riesce a toccare delle vette, come dire, di profondità che poi le saranno sconosciute nel resto della sua carriera. Poi c'è un altro duetto, forse meno famoso ma più intenso ancora, con una grande artista inglese, PJ Harvey, per la canzone Henry Lee. I due artisti si incontrano subito dopo la fine del matrimonio di Cave, siamo nel 96, e la loro prima collaborazione, quando viene il momento di girare il video, succede qualcosa di impensato, scoppia un'attrazione istantanea che sfocia con un primo bacio dato davanti alle telecamere accese. Se vi capita, andate a vedere quel video, perché quello è un bacio non previsto, dato solo dall'enfasi del momento, dall'intensità della canzone. Ancora oggi Cave confessa che se gli capita di guardarlo assieme all'attuale moglie si imbarazza. Non succede niente, ma c'è un sentimento intenso, perché in fondo ormai l'abbiamo capito, Nick Cave è anche un inguaribile romantico. Era un video con un solo Chuck. Non c'era stata nessuna prova, tranne per il fatto che sapevamo che saremmo stati seduti in un divanetto a due posti. Ci conoscevamo appena e poi, mentre stavamo girando il video, è successa questa cosa. Una specie di imbarazzo, come se... Insomma, è stato come se la relazione iniziasse durante quei tre minuti di video. Il falco. E il gabbiano. La storia tra Nick Cave e PJ Harvey, nata sul set del video della canzone Henry Lee, dura poco meno di un anno e poi la cantante lo lascia perché è un trauma, l'ennesimo, una delusione amorosa fortissima, e il senso di abbandono che prova poi lo riversa nei versi e nella musica del suo nuovo album, forse il più intimo, molti lo considerano il suo capolavoro, Boatman's Call. Siamo nel 1997. E hanno scritto che l'album segna una trasformazione epocale nella poetica di Cave, da artista viscerale, fuori controllo, magari spaventoso con i birthday party, adesso è il maestro delle canzoni d'amore. E spesso accade che perdere un amore ti porta a scrivere grandi canzoni, insomma, come se il cielo volesse compensarti. E da eroe gotico, da eroe nomade, da icona degli eccessi e della violenza, si trasforma in un uomo che si è conquistato un posto tra i più grandi e più rispettati autori di ballad lente e malinconiche. Proprio lì siede vicino a Leonard Cohen, per esempio. Con lui la canzone d'amore si trasforma in un sentimento che ha qualcosa di spirituale, quando dice: la mia motivazione principale come artista è l'attualizzazione di Dio attraverso la canzone d'amore. Dice una cosa importante, insomma, rapportata alle cose, alle cialtronate che ascoltiamo oggi, siamo su un altro livello, non sono solo canzonette. La canzone è eroica perché la canzone affronta la morte. La canzone è immortale e guarda coraggiosamente alla nostra estinzione. La canzone emerge dal mondo spirituale con un vero messaggio. Un giorno ti dirò come uccidere il drago. Boatman's Call è un album sull'amore perduto, ma per poco, perché nel 97 Cave incontra finalmente quella che sembra essere la donna della sua vita. Si chiama Susie B, che è inglese, figlia di diplomatici, fa la modella per Vivienne Westwood, è l'incarnazione del modello estetico di Nick, capelli neri lunghi, pelle bianchissima, bellissima, un po' simile a lui. La potete vedere nuda sulla copertina dell'album Push the Sky Away, il penultimo album dei Bad Seeds del 2013. Nel 99 i due si sposano, nel 2000 nascono i gemelli Arthur e Earl. E questa volta Kevin il ruolo di padre finalmente lo prende sul serio, trascorre molto tempo con i figli, li porta in studio durante le prove con la band, anche perché nel frattempo, siamo nel 2006, per Kevin è iniziata una nuova esperienza musicale, Grinderman, un modo per sperimentare materiale nuovo. Produce subito due dischi, l'omonimo Grinderman e poi Grinderman 2. Il gruppo, come dice lui, è un modo di scappare dalla pesantezza del lavoro con i Bad Seeds. Dura poco, nel 2011 Cave annuncia la fine del gruppo durante un concerto in Australia. E negli anni Cave è cambiato, non si droga più, non beve più, non fuma perfino più. Dice che in qualche modo è una vita che non vale più la pena di vivere, al tempo stesso che non è mai stato tanto bene. Di certo, da quando non si droga è ancora più creativo, e questo capovolge, insomma, anni di teorie lisergiche o comunque di teorie per le quali drogarsi aumenta la creatività. Non è detto, lui è la prova vivente che potrebbe e dovrebbe essere vero il contrario. Scrive molto dopo il lungo parto del suo primo libro, SDSO An Angel, tradotto in italiano come La Asina V dell'Angelo. Scrive un secondo libro nel 2009 e lo chiama La morte di Bunny Munro. Avevo già scritto molto prima, ma si trattava di mettere per iscritto le storie che raccontavo. E questo accadeva da sempre, non solo insieme a mio padre, ma anche per me stesso. Per molti anni ho dormito nella stessa camera da letto con mia sorella, almeno finché non è diventato indecente farlo, e ogni sera le raccontavo delle storie per farla addormentare. Bastava che mi dicesse: raccontami una storia, che io iniziavo. E così è stato da che io ricordi. Era divertente anche a scuola. Così quando mi sono trovato a scrivere una sceneggiatura, è stato solo come raccontare una storia più lunga. E oltre ai libri, Nick Cave scrive anche la sceneggiatura di un film che esce nel 2005, un western intitolato La Proposta, ambientato in Australia, molto ben recensito. Non è la sua unica esperienza con il cinema, recita nel film di Vendersi Il cielo sopra Berlino dell'86 e scrive la canzone che chiude il sequel Così lontano così vicino del 93, Cash Your Song. Quando scrive le sue canzoni o le sceneggiature, Cave usa sempre una macchina da scrivere vecchio stile, per una ragione ben precisa. Quando usavo il computer per scrivere c'erano dei giorni neri in cui schiacciavo il tasto delete e così finiva tutto. Non restava alcuna traccia delle nuove canzoni che avevo buttato giù. E credo di aver perso molte informazioni e un sacco di versi alternativi solo perché avevo avuto un brutto giorno, perché sono tornato a scrivere a mano e sulla macchina da scrivere. E fra le varie cose scrive anche un sequel del Gladiatore su richiesta di Russell Crowe, ma per sua stessa ammissione la sceneggiatura è così brutta che la casa di produzione non tenta neanche di fargliela riscrivere. Gli va meglio con le colonne sonore, ne scrive per molti film importanti come La Strada, un film tratto dal romanzo di Cormac McCarthy. E la strada di Nick Cave, una strada che sembra in questo momento proseguire sotto i migliori auspici, conosce un terribile arresto, il più terribile. Nell'estate del 2015 il figlio Arthur, uno dei gemelli avuto da Susie Beak, muore in seguito a una caduta dalla scogliera vicino a Brighton, la città di Mae, dove da anni lui risiede con la famiglia. Dall'autopsia risulterà che il ragazzo di 15 anni aveva preso LSD assieme a un amico. Forse la caduta è la conseguenza di un viaggio andato male, e purtroppo con gli allucinogeni può succedere. Le ultime immagini felici sono quelle di un documentario sulla vita di Nick, realizzato un anno prima, nel 2014, intitolato 20.000 giorni sulla Terra, in cui Cave mangia la pizza con i figli su un divano. Per sconfiggere il dolore, Cave ha un'unica ricetta: il lavoro. Nel 2016 esce un altro disco con i Bad Seeds, Skeleton 3, il sedicesimo dei Bad Seeds. Un album che viene accolto entusiasticamente dalla critica. E nel 2017 Nick Cave compie anche lui, come me, 60 anni. È ancora snello e vivace, i suoi capelli continuano a essere sospettosamente neri, corvini, ma come ha ammesso lui stesso in una recente intervista a Il Die Till I Die, che si pronuncia nello stesso modo ma si traduce mi tingerò fino alla morte. Dopo un po' c'è qualcosa di perverso nell'andare avanti e ci si vede come un esperimento sulla longevità o qualcosa di simile. Come gli Stones. C'è qualcosa di meraviglioso in quella band. Li guardiamo chiedendoci per quanto tempo possono effettivamente andare avanti. Ma io sono diverso da loro, perché continuo a fare della musica decente. Ancora me ne sto seduto, cercando di fare dischi che siano diversi da quello precedente. Abbiamo fatto il possibile per condensare tutta la frenetica attività di un artista come Nick Cave in una puntata. Molti colpi d'ala, momenti drammatici, guerre vinte come quella con l'eroina e guerre vinte contro la noia. Alcune battaglie perdute, una terribile, quella di suo figlio, ma nel complesso un artista destinato a rimanere nel gotha dei grandi autori compositori. E se avete da chiederci qualcosa o da proporre qualche storia, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite a trovarmi, a trovarci sui miei, sui nostri social, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.